Quindi ci vuole una perfetta tranquilla per la settimana comunale. Aspetta, faccia un po' la modulazione, ho difficoltà a capire tutto. Ti stavo dicendo. Aspetta. Abbassiamo il volume. Va bene così. Ok. Si vicino, ecco perché se uscivo questa situazione. Stavo dicendo che il PMR, io ce l'ho, i portatilini, quello che è, vabbè, non è di quelli di 5 watt, cosa vuol dire, questi sono pochi milliwatt, quindi mi è sensato che parlato con qualcuno, cioè abbiamo un PMR come si deve, capito? Io ne ho una cesta, ho gli MT5050, gli FX Dynamics, poi qualcuno di contorno vecchio, là, anche con l'LPD. Non capisco, quindi si è fatta la raccolta di quegli apparecchi, ma c'è la gente, ma se c'è sapota, non ce n'è molta, perlomeno. Poca, poca. Magari qualcuno sta... Sicuramente stamattina io ero in alto, lui sarà stato in alto e per quello ci siamo sentiti. E poi diciamo che c'era qualche vitamina in più. Ah, non so che c'era da PMR. Fino a un po' di tempo fa c'erano dei monti, secondo facevano le patenti. Ne dava uno all'altro, gli faceva fare il percorso che doveva fare il... E come si chiama, capito? E quindi quando si trovava tranquillo per prendere la patente. Ti senti pure da qui? Andare, gira qui, poi gira a sinistra, che deve passare qua a sinistra, poi lui ti fa girare a destra e poi vai dritto. Ma chi? Ennio De Montis? Eglia. Ok. Poi, mamma mia, quanti trallazzi che facevano loro, poi lasciamo perdere, là. Ascolta, comunque abbiamo misurato, siamo messi, abbiamo portato vari portatili. Allora, l'MT5050, reale, con carico fittizio, apparecchio omologato, da 200 mW di RF. Sono buoni, 200 mW sono buoni, meglio di 10 mW come c'è lui, perché sapevi la storia, no? 500 mW ERP, reali, watt reali sono meno della metà, poco meno della metà, e quindi siamo lì, 200 mW, e fanno il loro lavoro e servono al mare e in altri posti. Comunque, aspetta. Prego, per un controllo, buonasera. Avanti, un scorsi. Antonello, Rosilandia. Ciao, per essere tutto ben ascoltato. All'inizio la faccia di comunque. Buonasera, per il scucito. Ehi, guarda, secondo me ho piantato l'antenna sul tetto. Se ti posso fare due passaggi per dirmi come sto andando. 9.30. Si dice 9.30, 9.30, 9.05. Ecco, adesso ti faccio un altro passaggio, adesso. Guarda adesso, 9.30, 9.30, 9.30. 9.20. La radio è abbastanza comprensibile, sì. Sì, sì, che cosa è adesso? La 27L? Come si chiama? La Mercury? No, c'è l'Energy 1.5. L'Energy 1.5, sì. Siamo sul terrazzo, sulla piazza, sul tetto. Un po' stavo provando le tattere a vedere come sono, perché ci sono due apparati, vabbè. Adesso sto usando la 68, c'ha 34 canali. E dunque ho fatto, ho scacciato la portante sull'1, mi indicava in un punto, ho messo sino a 34 e mi indica forse sul punto. Diciamo che strumentativa alla fine non ne ho. Questo mi ha detto che potrebbe essere anche quello per misurare le stazionarie. E poi l'ho provato col Galaxy Saturn che ce l'ha incorporato per guardare le stazionarie. E lì sul canale 1 mi indica 1 e 2 di stazionarie. Invece sul 40 1 e 7, non so se è una cosa normale, o c'è stazionarie. Che cosa è 7? Cosa vede? Dice che quando devi farlo sul canale 40 se c'hai un apparecchio grande che va a 200 canali, capito? E se lo fai nel canale 40 normale, lui ci vuole sopra, c'è il sacco di stazionari sotto le ali, quindi l'antenna è veramente proporzionale. bassa, frequenza bassa, filo lungo, frequenza alta, filo corto, deve abbassare, stiletto. Dunque alla fine è normale, questo che io ti ho letto sono una cosa normale, è la norma alla fine in stazionarie. È normale sì, sopra no però, 1,7 è troppo, allora 1,3, massimo 1,4, non di più. Ecco, e come posso fare io? Siccome ho 22 metri di cavo, io alla fine per diminuirle dovrei diminuire il cavo, la lunghezza del cavo. No, il cavo non c'è proprio niente, non toccare nulla del cavo. C'è uno filo sopra, uno filetto sopra l'antenna in punta, devi regolare quello. Cioè, se è stato segnato, c'è un segno nero, devo mettere quello dove c'è la pittina. Quello l'ho già fatto, già dalla fabbrica era già il segno, da lì ho avvitato perfettamente, sì, quello l'ho già fatto. Ma non sono tirati tutte quelle stazioni, ma proprio si ha l'apparecchio che abbia problemi di misurazione. Ho capito, invece ci ho fatto la prova con la 68, giustamente guardo lo smitter, dall'1 al 40 non c'è nessuna, dall'1 al 34 non c'è nessuna differenza, dunque sono la norma. Sì, comunque non è 24, sei 1,25, da 25 in poi è tutto sotto, quell'apparecchio, ne è 9 sotto, se c'è 34 canali che dico io. Alla 68, quello normale, alla 68S. Come sto dicendo, guarda, dall'1 al 25 è normale, dal 25 fino al 34 sei tutto sotto, cioè 9 canali sotto. Dall'1 al 35 normale devi staccare un tabletto dall'arancione che c'è nella piattina del commutatore dei canali, che rimane centrale con il cambio arancione e ti dà tutti i 35 canali normali. Poi lì da lì devi spostare in pratica, mettici un pulsantino, mettici un cavetto e ti dà 34 canali sotto. Ho capito, comunque per questa misurazione, perché lo sai cos'è? Un po' di giorni fa, vabbè, c'avevo 11 metri, ne avevo di cavo, con l'attaccavo lineare si accendeva la spia AUI, dunque quello ti indica le stazionarie, adesso in questo caso con i 22 metri di cavo non lo fa più. Vabbè, non so perché hai messo un tasto tra un pezzo, vuol dire che prima ce l'avevi messo in basso in qualche terrazzino e quindi ti dava dei problemi. Vabbè, comunque già ti sento bene. Perlomeno, sì, perfetto. Avanti Marco. Ecco. Avanti Beck. Ditemi, ascoltate, Antonio Grode da questa parte. Un po' scusa per ieri, ma non ce l'ho fatta e poi non sapevo come avvisarti. Non fa niente, non preoccupate, non ci sono niente, sono stato notato da bene ieri sera, a Croce. C'è Maculo Condo, la buona anima, Antonio Grode. Ciao Grode, se mi occupi, buonasera. Ma arrivi forte e chiaro la bomba e mi ricordo sicuramente di te, ma stiamo parlando di 20 anni fa lo stesso. Ma no, questo è Antonio Riusi, ma quello quando c'era poco fa, ma con io non ci sei. Oh. Ciao Antonio, mi ascolti? Dopo 20 anni? A me stai dicendo? Io mi sono reso conto che questo era Antonio Riusi, salutavo appunto Marco Condor, Marco era, sì. Ehi, mi ascolti? Va forte e chiaro, arrivi un Santiago immaginario perché non c'ho lo smitter di, sarai un 9, 9, 10, è una radio 5 a bomba, qua sei in zona Sierra Sierra e Ponte Nuovo. Ok, tu arrivi bene, bene, allora 5 a 9, radio 5 Santiago 9, pulito pulito. Ma spiegami questo di tirare fuori di nuovo il baracco. Così, stavo frugando in una soffitta e ho trovato roba avanzata da 20 anni fa. Però è tutto un po' vuoto adesso rispetto a prima. Gamba, questo sì, però si sta rianimando la situazione, dai. Però non c'è più la verve di allora. Quando non c'erano telefoni, quando non c'era internet, eccetera, eccetera. Ma vediamo come va. Va bene. Fatto sulla stazione, sì. Aspetti, ha un sovramodulato, ripeti Grotte. Cioè, hai tirato sulla stazione di nuovo? No, sopra no, sopra ho problemi. Vediamo un po' cosa riesco a fare. Adesso sono andato a mobile. Ah, ho capito. Riprendi tanto. Antonio, io per lui. Antonio di Ussi. Ussi, mi prendi da là. L'amico che è in barra mobile, mi copi? Non mi copia? Sì. Ascolta, Grotte, siccome ho piantato la antenna sul tetto, ho migliorato qualcosa, il segnale è sempre uguale. Ha modulati a metà, avanti, quel Marco l'ho sentito, l'altra persona che era. Oh, Grotte. Mia tu. Noella, ascolta, siccome ho piantato l'antenna sul tetto, meno male ci siamo sentiti anche un po' di giorni fa. Il segnale è lo stesso oppure è cambiato qualcosa? Qua stai arrivando comunque a bomba, qua sei sempre arrivato bene, poi nel mio QTH non so come arrivi adesso di bene, perché dovresti arrivare ancora meglio. Se qua sono zona, quindi sì, è cambiato qualcosa, è meglio anche. Qua sei a bomba proprio. Vabbè. Dovrei avere qualche piccolo strumento per regolarmi, per vedere un po' questo stazionario, da farca miseria. Un po' leggermente, ma proprio un filino saturo di radio, chiedo conferma a Pomponi. No, già è chiaro qua, aspetta un attimo. Solo che adesso ho cambiato cavallino. Io. Oh, Pomponi, dove vuoi che arrivi? Non so dove vuoi. Non ho capito cosa. C'era qualcuno sotto, Antonio? Sotto dove? Negativo, a livello di QRX. Pomponi, l'hai sentito? A livello di cosa è meno di QRX, però. Quella rete, no? Usami QRM, sì. Avanti, avanti, 131, avanti, ti accoppiamo. Che per il momento. Marco Vale, è un guai. Avanti, va qui. Oh, raga, vi devo salutare che mi hanno chiamato e devo muovermi. Devo darmi una mossa, già prima, mezz'ora fa, Antonetta, avevo detto che dovevo andare via. E buon proseguimento e ci sentiamo questi giorni, dai, vediamo. Tempo permettendo. D'accordo, ciao Marco, buona Pasqua, ci sentiamo, con Capodanno, che c'è la loro. Ah, ben sentito, ben risentito Marco, è stato piacere appunto risentirti dopo tanto tempo. Ma ti stavo dicendo, ma c'è qualcuno, Antone, sotto? Sì, la 131 era, come stava c'era il carabinieri sotto, dopo che partiranno due, meno male, erano quattro camion, c'erano alcune in macchina, non lo so, non so cosa dirti. Avanti, Ussi. Ehi, anche stiamo chiamando quel tipo della 131, quelli si chiamano 31, però non lo sento più, c'è direzione muro, se sono capito male. No, ti copio un ben male, un ben. Non riesco a tirarlo fuori la verità. Dunque niente, alla fine dovrei beccarmi da questo strumento dalla GBC alla Fusaro per vedere un po' questo impianto di stazionarie, perché qui in paese non c'è nessuno che l'abbia, in modo da vedere un po' se ne ho o cosa devo fare. Boh, mi devo arrangiare. Oh no, il vetro compri, c'è costava poco la cantata, costava lo smettere. E me lo senti tranquillo, è segna giusto. Ascolta, ma se ne è stato lo strumento. fine dove devo agire per diminuirle? Ce n'hai. Nell'antenna? Certo, devi, se non vuoi comprare un accordatore devi per forza accordare l'antenna. L'antenna si può regolare attraverso degli stili che ha. Che antenna hai? È la Energy 1.5 della Midland, ma siccome tutti gli stili che ha hanno già i fori pronti ad avvitare, poi nell'ultimo pelo c'era già un puntino nero in cui doveva avvitare lì la vite per tenerlo fermo, dunque già dalla casa lì dovrebbe essere già tarata lì, poi bisogna vedere prova a prova come va la situazione. Ma se tu rispetti infatti la lunghezza del cavo, quelle antenne sono fatte per darti stazionario 1 e 1, capito? Dovrebbero essere così, quindi non ci dovrebbero essere problemi. Poi per come stai uscendo sicuramente non ce le hai alte, non ce le hai assolutamente alte. Poi va visto anche in canale 40. Sì, infatti ho fatto una prova col Galaxy e dall'1 al 40, dall'1 mi pare che 1 e 2 massimo sul numero 1, sul 40 arriva già 1 e 7. 7 non è poco, però ricordati che l'antenna c'è il puntino, c'è la possibilità di tirarla su, tirarlo giù lo stile. Fatto sta che la devi regolare dal canale 20 in modo tale che sia a centro banda e ti metti nella condizione poi di avere un pochettino sull'1 e un pochettino sul 40. No, stai sbagliando anche tu Antonio, sul 40 va, non sul 20. Perché lui c'ha 200 canali, c'ha il Saturn Echo, quindi lui c'è stazionato nei canali alti, nei canali bassi non ne ha, hai capito il problema cos'è? Scappa, questo mi mancava, pensavo avesse un 40 normale, c'ha un 200 sì, assolutamente. Invece se regolando sul Galaxy va bene anche su, adesso sto usando la 68, va bene anche per questo alla fine, se faccio questa prova. Sulla 68 sei apposta perché più di 25 non sali, quindi sei tranquillo, però quando ti passi il 40 comincia a cadere le stazionarie, capito? Adesso è un bel problema, devo portarmi l'apparato su con tutta l'alimentazione, collegare e provare con l'antenna per casotto. Okay. Con cosa stai uscendo? Con 58 o RG8? No, quello pieno, quello normale, non quello grosso. E con quello lì, sì. Li hai rispettati? Sì, io ho 22 metri. Bene, e i TL li hai controllati con tester? No, la verità col tester i TL no, perché non sono anche sprovvisto di tester, ma già me la cavo a saldare, l'ho fatto bene, perfetto, con la misura sua, giusta, l'ho fatto perfetto. Ma un tester serve sempre, nel senso che ti serve sempre, qui non sei un vero radioamatore se non ti fuma il saldatore, costa 5 euro da Bricoman ed ha tutte le funzioni. Questo tester qua, vabbè. Adesso vedo un po' di arrangiarmi, dai, di vedere un po' se ne ho oppure no, o sono nella norma, vediamo un po'. Va bene, dai, io vi saluto che vado a magnà, se nel caso ci sentiamo più tardi allora, dai. Buon proseguimento di serata e a più tardi allora. QRT, buona carica batteria, ci sentiamo più tardi, le prossime, dai. Avanti, buon pomeriggio. Ciao Anto, ci sentiamo le prossime, state bene, buon pomeriggio, buon tutto. Cosa hai combinato Grotti oggi? Di bello. Già, ero a svarione, nel senso che non può, c'è questa specie di batterio o virus che sia, forse me lo sono preso perché sono a male le panza, però rispetto a stamattina sto già meglio, quindi non era quella, era forse un'imbriaghera di ieri notte. Ah, invece sono male in collo. Come loro fai tutto? Io sono riuscito a comprare un microfono, siamo qui a GPA, cosa, al fusano e mi sembra stata una pressione, quindi sono salito su veloce. Mi chiamo aspetto, sono entrato. Ho preso un abito, ma sono venuto piano piano e mi sono sistemato. Questo Roger tipo che non vuole sentito. Perché non mi piace. Ora aumenti e fa piripiri, che se no un quarto d'ora ci vuole a chiudere. Già fatto? guardando comunque un paio di apparati in ricezione, ce n'è qualcuno bellino, padre banda, sempre per fare ascolto solamente. E vogliono anche poco, un 150-200 euro se lo mettono a capo. Buona solita, che vende il box lo invece? Che devo dire a Giovanna che gli ordina, capito? La dita che io direi il box mi serve, quindi a 29 euro. Non so se sia telecomunicazioni o che cos'era, era un sito che mi aveva dato, io l'ho comprato su eBay, però so che lo vende coso, come si chiama, www.telecomunicazioni.com, me l'ha dato Gianni, Gianni Doppio Rumo. Telecomunicazioni.com. Oppure Marcucci, però non so quale sia la fonte diretta. Guarda che questa Giovanna così mi rifaccio ordinare. Guarda qua come ne pigli uno. Ti arrivano subito lì. Un attimino, c'è una bassa.